Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna. Benvenuti ad Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna che racconta le attività dell'Assemblea Legislativa Regionale. In studio Isabella Scandaletti e Margherita Giacchi. In questa puntata parleremo di Europa e del ruolo attivo che possono avere i cittadini e le istituzioni dell'Emilia Romagna. Il mondo sta cambiando in maniera veloce e la pandemia ha accelerato questo processo. Come dovrebbe evolvere l'Unione Europea per affrontare le nuove sfide globali e prepararsi ai prossimi decenni? Il Parlamento Europeo e la Commissione Europea, insieme ai Paesi membri, stanno promuovendo la più ampia consultazione pubblica che ci sia mai stata sui temi cruciali dell'Unione, la conferenza sul futuro dell'Europa. Sentiamo con quali motivazioni da Carlo Corazza, capo ufficio in Italia del Parlamento Europeo. Il Parlamento Europeo ha voluto la conferenza sul futuro dell'Europa perché si è reso conto che bisogna dare, per evitare che i cittadini si allontanino dal progetto europeo, è importante dare loro risposte davvero efficaci e in maniera più democratica. E che c'era una grande urgenza di dare queste risposte, e che queste risposte non potevano venire dall'alto, ma dovevano venire con un metodo di partecipazione. Protagonisti della conferenza sul futuro dell'Europa sono i cittadini e le organizzazioni della società civile, che rappresentano gli interessi delle comunità locali, nazionali ed europee. Le persone hanno la possibilità di discutere, riflettere e scambiare idee, per poi formulare proposte all'Unione. Sentiamo come sta andando da Massimo Gaudina della rappresentanza a Milano della Commissione Europea. La conferenza ha già coinvolto quasi 5 milioni di cittadini europei in tutti i paesi, in un modo o nell'altro, attraverso la sua piattaforma digitale, oppure attraverso gli eventi che si sono organizzati sia a livello europeo sia a livello locale, compresi i panel dei cittadini, queste riunioni in cui dei cittadini estratti a sorte hanno partecipato a dei dibattiti sull'Europa, dicendo la loro, senza essere esperti, senza essere addetti ai lavori. Anche l'Emilia Romagna sta offrendo il suo contributo. Con i consiglieri regionali, rappresentanti in Italia delle istituzioni europee e i sindaci, si è parlato anche recentemente di governance europea e delle proposte formulate a riguardo dai cittadini emiliano-romagnoli. Sono in particolare i giovani a essere coinvolti. Dopo la consegna della relazione conclusiva nella primavera di quest'anno, il Parlamento europeo formulerà prossimi indirizzi per le politiche dell'Unione, tenendo conto delle priorità segnalate dai cittadini. E adesso parliamo dei fondi europei a disposizione dell'Emilia-Romagna per le cosiddette politiche di coesione nei prossimi 7 anni. Quasi 800 milioni in più rispetto al periodo precedente, ci ha spiegato Lia Montalti, segretaria dell'Ufficio di Presidenza. Avremo da spendere da qui al 2027 2 miliardi di euro di finanziamenti europei da investire nei territori per i cittadini emiliano-romagnoli e per le imprese. Le risorse di provenienza europea, statale e regionale sono equamente divise tra il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e il Fondo Sociale Europeo. Almeno il 10% di tutti i fondi dovrà coprire progetti riguardanti i territori più fragili, in particolare le aree interne e la montagna. In base ai documenti di programmazione approvati dall'Aula, circa un terzo dell'ammontare del FESR, 303 milioni di euro, è destinato alla lotta al cambiamento climatico, con azioni rivolte alla sostenibilità e alla decarbonizzazione, mentre 530 milioni sono per innovazione, ricerca e competitività. L'obiettivo è ridurre le disuguaglianze economiche, sociali, di genere, generazionali e territoriali. Il Fondo Sociale Europeo riserva invece il 50% delle risorse, cioè 502 milioni di euro, al lavoro e in particolare all'occupazione giovanile. Sentiamo le parole di Massimiliano Pompignoli, presidente della Commissione Bilancio. Sono importanti per noi ottenere queste risorse qui, sia dal punto di vista dell'occupazione giovanile, sia dal punto di vista delle aree, delle comunità montane, sia dal punto di vista della tecnologia, della rete digitale, dei saperi, dei doveri, della conoscenza, tutto ciò che la Regione punta a valorizzare nell'ambito delle strategie che ci si pone dal di qui a fino al 2027. Il prossimo passo nelle attività istituzionali dell'Assemblea è l'avvio dell'annuale sessione europea il 23 febbraio con una udienza conoscitiva. Sentiamo ancora Lia Montalti. L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna partecipa alla formazione delle politiche europee e alla loro attuazione nel territorio. Questo si concretizza in alcuni passaggi fondamentali. La sessione europea, che è il momento in cui l'Assemblea legislativa si confronta con il programma annuale della Commissione europea e porta la voce dei cittadini emiliano-romagnoli a Bruxelles. Il processo di partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto europeo si concluderà con una speciale seduta d'aula, come ci spiega Massimiliano Pompignoli. Stiamo aspettando le indicazioni dall'Europa che ci dirà quali saranno gli obiettivi su cui poggeranno i vari pilastri europei, e dal di lì partiremo con l'udienza conoscitiva, quindi avremo tutti gli stakeholder e valuteremo appunto queste raccomandazioni, per arrivare poi in aula con la sessione europea a metà marzo con la risoluzione che si farà in prima commissione, che io poi leggerò come presidente della commissione bilancio e affari europei proprio sulla sessione europea. Dal di lì le indicazioni che daremo appunto alla regione rispetto ai pilastri che l'Europa ci darà. Grazie al supporto delle istituzioni europee, in questi anni l'Assemblea ha potuto avviare numerosi progetti e percorsi di sensibilizzazione e formazione, con l'obiettivo di promuovere la conoscenza dei diritti e dei doveri che derivano dalla cittadinanza europea. Sentiamo la Presidente dell'Assemblea legislativa, Emma Petitti. Dalla prima sessione europea noi partecipiamo attivamente a quella che è l'elaborazione delle politiche europee in relazione ai nostri territori. E non è un caso che nel 2021 abbiamo attivato la rete regionale europea con tutti gli attori del Patto per il Lavoro all'interno di questa rete. Enti locali, associazioni, università, mondo formativo e associativo, perché noi crediamo che la coesione sia un valore che dobbiamo portare anche nella relazione con l'Europa. In un momento come questo, dove l'Europa è ritornata protagonista attraverso le scelte che ha fatto, che guardano alla giustizia sociale, guardano all'innovazione, guardano al ruolo dei giovani per la crescita dei nostri territori, crediamo che sia ancora di più importante investire in questa direzione. In apertura abbiamo parlato del protagonismo dei cittadini che le istituzioni europee vogliono promuovere anche grazie alla conferenza sul futuro dell'Europa. Un contributo alla comunicazione di questa e altre iniziative viene dallo Europe Direct dell'Emilia-Romagna, uno dei centri di informazione presenti nei Paesi membri e sostenuti dalla Commissione europea. Il centro Europe Direct, che ha sede in Assemblea legislativa, offre ai cittadini informazioni, consulenze e risposte sull'Unione. Svolge attività di formazione anche con gli studenti, sensibilizzando i giovani sulle opportunità offerte dall'Europa. E a questo proposito, proprio per incentivare la partecipazione giovanile e il superamento delle difficoltà dovute alla pandemia, le istituzioni di Bruxelles hanno dichiarato il 2022 Anno Europeo dei Giovani. Siamo al termine della nostra puntata. Per rimanere aggiornati sulle attività dell'Assemblea legislativa, seguiteci sui profili social e sui siti assemblea.emr.it e cronacabianca.eu. Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia-Romagna, programma cura del Servizio Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia.